Buongiorno Palestina. Facciamo oggi riferimento a due precedenti trasmissioni che abbiamo fatto su antisemitismo, sionismo e che furono condotte da Piero, che abbiamo anche oggi in studio. Però prima di dare la parola a Piero, volevo ricordare come sull'antisemitismo è stato fatto recentemente un convegno a Empoli, i cui relatori erano tutti sionisti, filo-sionisti, filo-israeliani e senza nessuna voce diversa. Ora, su questo vorrei ricordare alcuni libri, alcune cose che sono state scritte da persone molto documentate. Una è un libro che si chiama Sionismo, il vero nemico degli ebrei. È di Alan Hart, è un giornalista americano. Un altro libro è Le vittime ebree del sionismo, cioè il sionismo come vero nemico degli ebrei. Questo mi pare molto esplicita come affermazione e vorrei dare ora la parola a Piero perché riprenda questo concetto con delle citazioni che vorrei che venissero intese per poter giudicare chi è oggi il vero nemico degli ebrei. Ricordavo che, cioè volevo ricordare che nel convegno di Empoli si è parlato anche di cosiddetto antisemitismo di sinistra, cioè viene chiamato antisemitismo di sinistra quando viene criticata Israele e viene detto che Israele è uno stato razzista. Su questo, giudicate voi, dalle affermazioni che fanno i dirigenti, israeliani oggi. Oggi e ieri. Do a questo punto la parola a Piero e vi ringrazio del vostro ascolto. Sì, grazie Claudio, buonasera, buonasera a tutti. Questa tua introduzione mi dà modo di citare alcune dichiarazioni di leader sionisti, politici e parlamentari israeliani che in qualche maniera, già dalla fine del secolo scorso, hanno creato un filo conduttore, un progetto che ancora oggi non è definitivo, perché ancora oggi nelle dichiarazioni dei politici dello Stato israeliano di oggi si rievoca le dichiarazioni che furono fatte oltre un secolo fa. Vorrei iniziare con un esempio. Il fondatore del sionismo, Theodor Herzl, nel 1897, quindi in epoca non sospetta, perché chiaramente non si può pensare, non si poteva pensare allora ad uno Stato israeliano, nessuno poteva immaginare che ci sarebbe stato un olocausto degli ebrei, quindi siamo in epoche molto lontane. E cosa disse Herzl? Tenteremo di sospingere la popolazione palestinese in miseria oltre le frontiere, mentre gli negheremo qualsiasi lavoro sulla nostra terra. Questo dovrà essere fatto con discrezione ed attenzione. Quindi, perché fece questa dichiarazione? Perché lui sapeva benissimo già da allora che le intenzioni del progetto sionista erano quelle di ricreare la grande Israele, la grande Israele del 500, che era stata appunto nella zona palestinese, in Palestina, fino al 584 avanti Cristo. Ecco, volevano, questo è già il progetto, quindi è già l'inizio di una visione della formazione e della ricreazione della vecchia Israele, dell'Israele di biblica memoria. Cioè, ci stai dicendo che il progetto di Herzl era un progetto coloniale, in un periodo in cui il colonialismo peraltro imperava. Il problema è se questo progetto poi si è mantenuto costante oppure se ha subito anche tutte le vicende della decolonizzazione. Ecco, a questo proposito, che cosa è successo? Dunque, il progetto era ben chiaro. Loro sapevano benissimo, perché aveva mandato anche degli ispettori nella zona, che lì non era un popolo senza terra, c'era anzi un popolo, dei cittadini, delle persone che lavoravano, che vivevano abbastanza tranquillamente nella zona. Ecco, sapevano benissimo, già da allora, che l'immigrazione forzata di ebrei nella zona, nel paese che loro volevano riconquistare, avrebbe creato delle difficoltà, insomma, perché la popolazione palestinese a un certo punto, come è successo, si sarebbe ribellata a questa. E allora che cosa dissero? La popolazione palestinese bisognerà spingerle oltre le frontiere. Ma questa cosa però è proseguita, perché poi successivamente l'idea è stata ripresa da Ben Gurion, che è il fondatore poi dello Stato israeliano, e anche se non era ben presente ancora un progetto di colonizzazione della Palestina, loro pensavano di ripulire comunque la Galilea dalla sua popolazione araba, quantomeno cacciarli da questa terra, perché poi formare uno Stato e formare la nuova grande Israele bisognava prendere i posti di quelli che ci abitavano fino a quel momento, insomma. Ecco, e Ben Gurion, lui è del dopoguerra, del secondo dopoguerra, non mi pare. Lui divenne primo ministro, fu il primo ministro di Israele. Ecco, che cosa diceva a questo proposito Ben Gurion? Qual era la sua impostazione? Ben Gurion è il fondatore di Israele, esattamente, e lui, una delle affermazioni che fece quando poi, molti anni dopo, si prevedeva di formare lo Stato di Israele, disse chiaramente: dobbiamo usare il terrore, l'assassinio, l'intimidazione, la confisca delle terre per ripulire la Galilea della sua popolazione araba. Dobbiamo espellere gli arabi e prenderci i loro posti. Ecco, questo è già indicativo di come i sionisti affrontavano questa nuova, loro lo chiamavano questa grande avventura. Ecco, le cose sono cambiate come impostazione, perché attualmente, diciamo, i sionisti, anche nel convegno, questo convegno che citavo all'inizio di Empoli, presentavano Israele come faro di civiltà, come l'esercito più civile di questo mondo, come impostazione tutto sommato assai tollerante nei confronti del diverso. Com'è la situazione oggi? No, è assolutamente no. Non è cambiato niente, anzi, direi che le cose sono ulteriormente peggiorate, perché sono successe diverse cose, no? Sono successe diverse cose. Prima di tutto, ci sono state due guerre, una nel 48 e una nel 67, sono guerre di colonizzazione, guerre che miravano a cacciare la popolazione lì che viveva in Palestina per sostituirla con un'altra popolazione. Quindi diciamo che la Palestina andò in esilio in quel periodo, no? Fu cacciata, anche se loro dicono che i sionisti hanno sempre affermato che furono i palestinesi a lasciare spontaneamente, no? La loro terra, proprio perché loro non volevano vivere accanto a questo popolo che era stato oppresso, aveva subito quella tragedia che è la Shoah. Ma anche prima della tragedia della Shoah, tutte le azioni che avevano fatto dei gruppi terroristici, soprattutto Irgun Estern, erano finalizzate alla cacciata dei palestinesi, insomma, no? Quindi, per esempio, nel 21 c'è un altro leader sionista nel 1921, affermava: ci sarà solo una nazione in Palestina e sarà quella ebraica. Non ci sarà mai uguaglianza fra ebrei e arabi, ma vi sarà la predominanza ebraica non appena le condizioni demografiche, questo è importante, no? Demografiche ce lo permetteranno. Questo che cosa significa? Che loro avevano bisogno di persone, cioè di ebrei che arrivavano lì per sostituire i palestinesi che avevano vissuto lì fino allora. Ecco, a questo proposito, questo dottor Eder, un leader sionista importante, precorre i tempi perché in effetti nel luglio del 2018 è stata fatta la legge della Stato-Nazione del popolo ebraico. Proprio quello che diceva lui, non ci sarà uguaglianza fra ebrei e arabi, vi sarà la predominanza ebraica non appena le condizioni ce lo permetteranno. Ecco, questo contrasta poi profondamente con l'atto costitutivo dello Stato di Israele nel 1948, quando, in quanto nell'atto, che è una legge fondamentale, perché dunque ricordiamo che Israele non ha Costituzione, ha delle leggi fondamentali che accumulate costituiscono di fatto la loro Costituzione. Nella legge fondamentale del 1948, costitutiva dello Stato, si dice che lo Stato è uno Stato ebraico e democratico. Le due cose allora non sembravano così contrastanti. Oggi lo sono, mi pare, drammaticamente di più. Infatti ci si chiede, ma questa favola dello Stato ebraico, l'unico Stato democratico del Medio Oriente, baluardo della civiltà occidentale nel Medio Oriente, testa di ponte naturalmente, quindi europei soprattutto, come fa ad essere democratico se non riconosce l'uguaglianza di diritti per tutti i suoi cittadini? Arriviamo un pochino ad oggi, no? Una rapida parentesi. I palestinesi israeliani, gli arabi israeliani che sono diventati tali dopo la guerra del 48, non godono degli stessi diritti degli ebrei, lo sappiamo, ne abbiamo parlato altre volte in queste trasmissioni. Ed è un dato di fatto, lo sanno anche loro, lo sanno anche i sionisti, anzi lo rivendicano perché loro rivendicano il diritto che solo il popolo ebraico ha diritto di vivere e di lavorare e di prosperare nella terra che Dio ha concesso loro, la terra degli eletti. Quindi chiaramente non può essere certamente demografico. Uno Stato che si comporta in modo diverso a seconda che i cittadini siano o di un colore o di un altro, o di una religione, o di un'etnia o di un'altra. Ecco, volevo ricordare che molto spesso viene citata la democrazia israeliana in quanto anche i cittadini arabi possono votare. Ma il fatto che possano votare e il fatto delle votazioni, è questo un indice di democrazia? Domando. Nel Sudafrica dell'apartheid c'erano diversi partiti politici e tutti potevano votare. No, i neri no. Ma gli altri sì, potevano votare. Ma il fatto che esistano delle votazioni non è di fatto un indice di democrazia. Piuttosto mi interessa vedere che cosa è successo dopo la Shoah o come la Shoah ha avuto delle conseguenze sulla costituzione dello Stato di Israele. Ecco, che cosa dici a questo proposito? Ebbene, sì, Claudio, tu hai toccato un punto importante che forse pochi però considerano, in quanto tutto quello che è successo prima della formazione dello Stato di Israele non prevedeva l'olocausto degli ebrei, perché nessuno poteva immaginare che dal 39-40 al 45 ci fosse la Shoah, ci fosse l'Olocausto, no? Che gli ebrei sarebbero stati distrutti. Non lo pensava nemmeno né Herzl né Ben Gurion quando ha fondato Ben Gurion prima della fondazione dello Stato. Però in realtà questo è successo, questo è successo. Ecco, è molto, diciamo, come si potrebbe dire, particolare, no? È di una di un cinismo molto particolare il comportamento di molti sionisti proprio dopo, durante e dopo l'Olocausto degli ebrei. Vedremo, cercherò di dirti qualche cosa proprio su alcune situazioni che si sono create dopo la tragedia dell'Olocausto. Ecco, vedremo, allora riprenderemo questo durante, appena dopo l'intervallo musicale e vi ringraziamo nuovamente per l'ascolto. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Allora, riprendiamo da dopo la Shoah. Allora, avviene la Shoah e qual è a questo punto la impostazione che viene data alla costituzione dello Stato e ai comportamenti successivi dello Stato di Israele? Piero. Ma il progetto continua sulla stessa falsariga, sia prima che dopo la Shoah. Prima di affrontare quelle che la Shoah ha significato e come è stata affrontata e come è stata commentata da molte parti del movimento sionista, ti voglio leggere alcune delle dichiarazioni di leader sionisti per far capire come si può pensare ad un progetto diverso che non sia quello della pulizia etnica della Palestina. Queste sono dichiarazioni non fatte da un uomo della strada, ma da responsabili della politica di Israele. Esempio, Moshe Dayan, che era generale dell'esercito israeliano, no? E poi ministro della difesa di Israele, così si esprimeva: le azioni di rappresaglia sono la nostra linfa vitale. Israele si deve inventare i pericoli e per farlo deve adottare il metodo della provocazione e della ritorsione. E quello che sta avvenendo anche oggi. Sharon, non ci sarà sionismo, colonizzazione e Stato ebraico senza la facciata degli arabi e l'espropriazione delle loro terre. Anche lui, personaggio importantissimo, generale e primo ministro. Più recentemente, Benjamin Netanyahu, primo ministro, non divideremo Gerusalemme, altro che di Gerusalemme capitale due stati, come era stato affermato e le Nazioni Unite avevano ribadito con la 181. Non divideremo Gerusalemme, non faremo concessioni, non ci ritireremo da questa terra. Tant'è vero che oggi, anche nella sua campagna elettorale, ha detto che lui annetterà tutte le colonie allo Stato di Israele. Quindi altro che ritirarsi, altro che cedere, prenderle di più. Questo è un po' il progetto. Shahed, noi siamo contrari ad uno Stato palestinese. Lui era un ministro della giustizia, dichiarazione fatta nel 2015, quindi attualissima. Non c'è e non ci sarà mai uno Stato palestinese. Il ministro dell'educazione Naftali Bennett nel 2015, la risposta al terrore sta nel costruire insediamenti e non avere paura. Se c'è una soluzione politica all'ondata di terrorismo, questa è mettere fine al sogno di uno Stato palestinese. Vorrei capire come fanno i sostenitori dello Stato israeliano a dire che questo è uno Stato democratico, quando queste sono le dichiarazioni dei suoi leader. Se andiamo poi ancora a vedere altre dichiarazioni, addirittura una direi che è addirittura demenziale, un rabbino di Stato, Itzhak Shapira, è lecito uccidere anche bambini nel caso in cui sia chiaro che crescendo potrebbero diventare minacce per gli ebrei. Quindi c'è anche questo senso della sicurezza così portata al parossismo. E così via. Ecco, queste sono più o meno le dichiarazioni, ma potrei citarne altre 20. Menachem Begin, la divisione della Palestina è illegale, questo l'ha detto anche lui prima negli anni 2000. Non sarà mai riconosciuta Gerusalemme e sarà se per sempre nostra capitale. Eretz Israel, cioè la grande Israele biblica, verrà ricostruito per il popolo di Israele, tutto quanto e per sempre. Questo è Begin. Vogliamo sentirne qualcun'altra? Shamir, i vecchi dirigenti del nostro movimento, è lui primo ministro di Israele, nell'83, 84, 86 e 92, ci hanno lasciato un chiaro messaggio di prendere Eretz Israel dal mare al fiume Giordano per le future generazioni, per una aliyah di massa, aliyah è l'immigrazione ebraica, e per il popolo ebraico che tutto quanto sarà radunato in questo paese. Ecco, non è che loro siano andati lì, no, questi sionisti, chiedendo il permesso, scusate, popolo palestinese, ci siamo anche noi, abbiamo subito la Shoah, quindi non abbiamo, siamo perseguitati dappertutto, vi dispiace se ci accomodiamo, facciamo a metà, voglio dire, un minimo di pudore, forse sarebbe stato più, umano e più morale. Ecco, questo per quanto riguarda il passato, ma quello che ho sentito dire qualche volta è questo: non si può rifiutare o condannare un bambino perché è nato da uno stupro. Il problema è se il bambino crescendo si comporta come il padre. Ecco, dire il passato è il passato. Quando i sionisti sostengono che viene minacciata l'esistenza dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele è una realtà, non è che ha senso dire che non deve esistere. Il problema è come si comporta oggi lo Stato di Israele. Allora, veniamo all'oggi e veniamo al comportamento dello Stato di Israele e quanto viene sostenuto oppure non sostenuto dal mondo ebraico, perché il mondo ebraico è un mondo complesso, è un mondo dialettico, cioè la dialettica, il dubbio e la messa in discussione delle politiche è una tradizione del mondo ebraico. Ecco, a questo proposito, che cosa sta succedendo? Sì, mi hai fatto venire in mente questa domanda. Alcune dichiarazioni che furono fatte da numerosi dirigenti sionisti nel marzo 1933, quindi prima, va bene, della guerra del 48, prima della seconda guerra mondiale. Non abbiamo nulla di cui vergognarci, no? Cosa successe? Sino dalla vittoria hitleriana in Germania di Hitler, che avvenne appunto nel 1933, numerosi dirigenti sionisti pensarono a come approfittare dell'antisemitismo che era già nascente, non c'era stato l'Olocausto, ma già alla venuta di Hitler, l'antisemitismo era imperante in Germania. Perché approfittare dell'antisemitismo nazista per accelerare l'emigrazione ebraica in Palestina? già c'era questo disegno un po', no, contorto, diabolico da parte di molti sionisti. Non è che ne prega che loro si preoccupassero troppo, no, di questo antisemitismo nascente, di queste leggi razziali che stavano per essere promulgate, eccetera. Le strade sono lastricate di soldi, dicevano i sionisti, come non ci saremmo mai sognati nella storia della nostra impresa sionista. Si presenta un'occasione irripetibile per costruire e prosperare. Questa era una dichiarazione fatta ai sionisti quando Hitler cominciava a perseguitare gli ebrei in Germania. Quindi voglio dire, già cinicamente, no, si pensava di sfruttare la tragedia, l'inizio della tragedia ebraica, poi sarebbe diventata una tragedia mondiale, universale, per fini, diciamo, nazionalistici, per i loro fini, per la formazione di uno Stato, insomma. Questo già nel 1933. Se poi si va a vedere, in effetti, la tragedia dell'Olocausto, va bene? La tragedia dell'Olocausto è stata utilizzata quindi dal movimento sionista anche dopo che è avvenuta, oltre che prima quando c'erano diciamo, i sintomi, no, del malessere diciamo, politico e etico che si stava formando in Germania. È stata utilizzata dal movimento sionista in relazione al suo scopo, cioè per la creazione di uno Stato ebraico in Palestina. Questo prima, e anche dopo l'Olocausto è stato sfruttato, dopo essere creato lo Stato, per la conservazione di questo Stato. E poi magari se vuoi ne potremo anche parlare, no? Però ti posso dire intanto che nella fase della guerra dal 41 al 45, con operazioni di salvataggio fortemente selezionate e dirette soltanto in Palestina, la grande maggioranza dei profughi veniva abbandonata al suo destino nei campi di concentramento, e la prospettiva dello Stato sionista veniva presentata come compensazione per i milioni di vittime che intanto cadevano nei campi di sterminio. Quindi già questo è un progetto di cui i sionisti palestinesi, lapsus, i sionisti israeliani che vivevano in Palestina, nella ex Palestina, già avevano in mente. Ecco, viene molto spesso da parte dei sionisti di destra, diciamo così, viene citato il fatto che il grande muftì, il grande capo religioso di Gerusalemme, a un certo punto andò a parlare con Himmler, dicendo a Himmler: non ci mandate tutti questi ebrei in Palestina, cercando una trattativa. Mentre una trattativa invece c'era in atto tra nazisti e dirigenti sionisti per l'invio di ebrei in Palestina. Esisteva un canale gestito dalla Gestapo che passava attraverso la Grecia e che portava giovani, soprattutto ebrei, in Palestina. Questo in accordo con le dirigenze sioniste. Non è una cosa di cui vorrei insistere perché ci trattava di salvare la pelle, però c'è sicuramente anche un certo livello di compromissione da parte delle dirigenze sioniste, vedendo come fatto principale il fatto di costituire uno stato sionista ebraico. Ma venendo all'oggi, nell'ambito del mondo ebraico, che cosa si muove e che cosa c'è qualcosa che contrasta quelle affermazioni che prima facevi dei dirigenti israeliani e che in qualche maniera si oppone a un indirizzo che di umanitario non ha nulla? Sì, non esisteva e non esiste il pensiero unico nemmeno in Israele, no? Già allora numerosi ebrei critici di Israele, già subito dopo l'Olocausto, si sono opposti alla narrazione dei vertici dei sionisti. Molti di loro sono cittadini israeliani, molti sono sopravvissuti all'Olocausto. Del resto, l'opera di sciacallaggio compiuta dallo Stato sionista può mettere in luce il vero insegnamento morale che scaturisce dalla memoria dell'Olocausto, cioè che simili tragedie non si ripetano mai più per nessuno. Questo è quello che viene affermato dagli oppositori del movimento sionista imperante. E anche oggi però ci sono tante persone, tanti ebrei israeliani che sono contrari alla politica espansionista e coloniale del proprio governo. Uno di questi è Ilan Pappé, che è uno storico israeliano ebreo, che diciamo così si esprime, no? Sul progetto degli ideologi sionisti che rivendicavano il territorio biblico e volevano ricreare questo territorio, o meglio, lo reinventavano questo territorio biblico come la culla del loro nuovo movimento nazionalista sionista. Secondo loro, la Palestina, dice Pappé, era occupata da stranieri, cioè le persone che vivevano lì erano solo delle tribù di barbari, di selvaggi, di incivili e di terroristi, come diranno poi successivamente quando i palestinesi hanno cominciato a ribellarsi a questa invasione. Si doveva riprendere possesso. Stranieri chi erano? Come cosa dice Pappé al proposito? Stranieri significava tutti i non ebrei che avevano vissuto in Palestina dal periodo romano. Dal periodo romano, e quindi si va molto indietro nei secoli, va bene? La cosiddetta terra nullius, di cui parlavano sempre, no? I primi sionisti, è una terra senza popolo, non era in realtà una terra nullius, perché i palestinesi nativi che la vivevano c'erano. Per i sionisti erano sostanzialmente invisibili, cioè erano solo arabi intorno li chiamavano. Oppure facevano parte di avversità naturali che andavano come tali rimosse. Proprio perché, dice Ilan Pappé, dovevano essere di ostacolo alla redenzione nazionale della terra ambita dal movimento sionista. Un altro personaggio, Jeff Halper, afferma questo: è contrario alla politica del proprio governo, il sionismo considera terra ebraica tutta quella che si estende dal Mediterraneo al Giordano. E fa una considerazione sulla trattativa di Camp David del 2000, no? Nel 2001, a Tava, appunto. Jeff Halper dice: la generosa offerta dei palestinesi è quella dei palestinesi per smascherare quella che i media hanno chiamato la generosa offerta di baracche. Cioè la generosa offerta in realtà non è una generosa offerta fatta da baracche israeliano ai palestinesi, ma è la generosa offerta dei palestinesi agli israeliani dovrebbe essere. Perché rigira la frittata? Perché lui dice che la generosa offerta non può essere fatta dagli israeliani semplicemente perché Israele non la può offrire, perché non, la occupa la terra, ma non la possiede, quindi cosa? Non può offrire qualcosa che non è suo. Questo è un po' il pensiero di Halper. Sulla sicurezza, dice, sì, tutto si basa su questa questione della sicurezza, ma Israele è la quarta potenza atomica del mondo, non può proprio aver paura di un piccolo stato, gruppo di palestinesi male armato al suo fianco, e quindi Israele, diciamo, lui conclude, non rinuncia all'occupazione della Cisgiordania perché nega che ci sia un'occupazione. Dice: io non occupo niente, quindi a me la Convenzione di Ginevra e tutti i principi internazionali che mi si accusa di tradire non valgono perché io non occupo niente, io solo contendo dei territori perché sono miei di proprietà e li contendo a chi me li vuol togliere. Ecco, questa è un po' la posizione. Altre persone sono Gideon Levi. Gideon Levi è un giornalista, anche lui ritiene che il peccato originale parte dalla dichiarazione di Balfour e dal mandato britannico. No? perché cosa è successo? In pratica è successo questo, è un impero promette una terra che non è stata ancora conquistata a un popolo che ancora non ci vive perché stava arrivando, senza chiedere il permesso a quelli che invece ci vivono. Sembra quasi che siano i palestinesi ad aver invaso un terreno, una terra in cui non devono stare e che non gli appartiene. Ecco, queste persone, questi personaggi ebrei che hai citato, molti di questi sono ex sionisti e sono ancora in fondo sionisti, perché nessuno di questi pensa alla distruzione dello Stato di Israele. In questo dico che sono tuttora sionisti, ma non certo a sostenere lo Stato di Israele oggi. Ecco, ritornando a quello che si diceva all'inizio, cioè dell'antisemitismo, noi vi abbiamo citato alcuni fatti, persone, eventi che sono dati storici. Ecco, di questi dati storici nessuno parla. Noi con i nostri mezzi limitati ne vogliamo parlare, ne parliamo nelle scuole, ne parliamo dovunque possibile, perché la prima cosa il primo passo verso una soluzione del problema palestinese-israeliano è fare verità e chiarezza su come effettivamente si sono svolte le cose. Noi abbiamo molta fiducia in quei gruppi ebraici che si oppongono alla politica attuale di Israele, che non accettano il conformismo di Israele. Io mi ricordo quando c'era l'apartheid in Sudafrica, mi dicevano: guarda, Sudafrica è un posto dove si sta benissimo, basta non guardare dall'altra parte, basta non girare lo sguardo. Così oggi è Israele, Israele illuminata, piena di acqua, di elettricità, di risorse, di progresso, di sviluppo economico, ma non guardare dall'altra parte. Ecco, quando molti fanno dei viaggi in Israele, guardino anche dall'altra parte perché imparerebbero qualche cosa. Passo la parola per un'ultima battuta a Piero e concluderemo presto. Sì, Claudio, proprio tu hai citato degli ebrei, no? Che molti si oppongono, quindi criticano il comportamento che loro dicono nazista addirittura, no? Dello Stato israeliano. Tant'è vero che nello Stato di Israele, a Tel Aviv, si stanno anche ricomponendo gruppi neonazisti, addirittura. Che addirittura dicono coloro che criticano gli ebrei che sono contrari e criticano la politica del nostro governo per ricreare quella grande Israele che Dio ha promesso e che è nostra di diritto, forse Hitler avrebbe dovuto farli fuori tutti prima. Ecco, questi addirittura dei gruppi neonazisti affermano addirittura questa, una cosa aberrante. E addirittura ti posso, proprio per seguire il tuo ragionamento sulle critiche che molti ebrei fanno alla politica dello Stato italiano, nell'agosto 2014 327 sopravvissuti all'Olocausto, che appartengono all'International Jewish Anti-Zionist Network, firmarono una lettera di protesta in risposta a un annuncio a pagamento pubblicato dai principali giornali americani, fra cui il New York Times, il Washington Post e altri giornali, nel quale uno dei principali esponenti dell'industria dell'Olocausto, Elie Wiesel, per giustificare i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, no? Ricordiamo che nel 2014 ci fu il grande bombardamento margine protettivo, che ha ucciso più di 2.300 persone, bambini, eccetera, per giustificare questo, evocava il genocidio nazista e accusava Hamas di sacrificare bambini. Loro scrissero questa lettera, questi 327 ebrei sopravvissuti all'Olocausto, In quanto ebrei sopravvissuti e discendenti da sopravvissuti e vittime del genocidio nazista, condanniamo inequivocabilmente il massacro dei palestinesi a Gaza e la protratta occupazione e colonizzazione della Palestina storica. Condanniamo inoltre gli Stati Uniti perché forniscono ad Israele i fondi per compiere l'attacco e più in generale gli Stati occidentali, perché usano la loro influenza diplomatica per proteggere Israele ed evitare le condanne. Il genocidio inizia con il silenzio del mondo. Siamo allarmati dall'estrema e razzista disumanizzazione dei palestinesi da parte della società israeliana, che ha ormai raggiunto livelli altissimi. Siamo inoltre disgustati e indignati dall'abuso che Elie Wiesel fa della nostra storia su queste pagine, quelle del New York Times, per giustificare l'ingiustificabile, il tentativo globale di Israele di distruggere Gaza e l'assassinio di più di 2.000 palestinesi, compresi centinaia di bambini. Niente può giustificare i bombardamenti dei rifugi delle Nazioni Unite, delle case, degli ospedali, delle università. Niente può giustificare il privare la gente di acqua e di elettricità. Dobbiamo levare le nostre voci tutti insieme ed usare il nostro potere collettivo per por fine a tutte le forme di razzismo, compreso il protratto genocidio del popolo palestinese. Facciamo appello ad un'immediata cessazione del blocco a Gaza, facciamo appello al completo boicottaggio culturale ed accademico di Israele. Mai più deve significare mai più per nessuno. Queste sono con 327 firme di sopravvissuti all'Olocausto. Con questo concludiamo questa trasmissione e siccome Piero e poi anche in altre trasmissioni avevamo parlato di trattative, noi de dedicheremo una trasmissione sui momenti, i diversi momenti di trattativa del cosiddetto processo di pace, dove le trattative sono avvenute e, che cosa, e di che cosa si è parlato e a che tipo di accordi si è giunti. Ecco, su questo dovremo parlarne in dettaglio e non la prossima trasmissione. La prossima trasmissione sarà dedicata a una persona, cioè un'intervista a un agricoltore che è stato recentemente in Palestina e il suo punto di vista sullo stato agricolo ed economico della Palestina occupata. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie.